Benvenuti a una nuova puntata di Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di Indie Media Calabria. Indie Radio lo potete ascoltare solo su Transizione di Fase, la web radio indipendente. In questo numero ci occuperemo di migranti che continuano le loro battaglie per il riconoscimento dei loro diritti. Ma ricorderemo anche la festa dell'acqua che si tiene a Reggio Calabria, più precisamente al Cartella, una festa che vuole ricordare il continuo impegno per la difesa dei beni comuni, che malgrado un referendum vengono ancora una volta privatizzati in nome della crisi finanziaria. Ricorderemo anche la battaglia del Notav che continua e che vede altri prigionieri. Due ragazze infatti sono state arrestate e nemmeno vengono rilasciate perché considerate pericolose e violente. Questo e altro ancora su Indie Radio. Continuate ad ascoltare Transizione di Pace e continuate a seguire Indie Media Calabria. I was minding my business, lifting some lead off the roof of a hole in a church. It was worthwhile living a laughable life, setting my eyes on the distant side of the religion. He's not threatened, he just wants to live his life this way. A sketchy picture of a thinker with a technician brain. Would he cover that head of a a parlare ancora di Notav. Le proteste, come sapete, sono continuate per tutta l'estate, così come è continuata per tutta l'estate l'azione repressiva dello Stato. Infatti in questi ultimi giorni, nello scorso venerdì, alcuni militanti sono stati aggrediti dalle forze dell'ordine, che ancora continuano a utilizzare i vari gas lacrimogeni. E questa volta però due ragazze, due donne sono state fermate e sono ancora infatti poste in arresto. Si tratta di una giovane studentessa e di una giovane volontaria del 118. Nello scorso venerdì dunque queste ragazze sono state fermate, sono state raggiunte dalle forze dell'ordine e soprattutto sono stati considerati come armi, sono state considerate come armi ciò che loro avevano portato in difesa, in loro autodifesa, ovvero una maschera antigas, dei guanti da lavoro e del Malox, che viene utilizzato proprio per via dei vari lacrimogeni che possono dare grandi irritazioni anche allo stomaco. Quindi questa volontaria del 118 che aveva questi mezzi, questi strumenti per prestare dei soccorsi è stata considerata come una pericolosa militante e entrambe le ragazze sono ora alle vallette e pare che non sia, anzi è così, non possono lasciare le carceri, non vengono dati gli arresti domiciliari perché dicono dalle alte sfere della repressione, che queste donne potrebbero si metterebbero in contatto con le frange più estreme e violente del movimento No TAV. Quindi ancora una volta vediamo come in verità si sta tentando di rendere il movimento agli occhi dell'opinione pubblica come un movimento violento, fatto da gente violenta. In realtà ancora una volta non è possibile ascoltare notizie veraci e vere nel mainstream. Certamente le azioni di solidarietà possono fare tanto, quindi vediamo che un po' in tutta Italia, ma soprattutto chiaramente nel Piemonte, vi sono azioni di solidarietà, sit-in e manifestazioni in solidarietà a queste due giovani militanti, alla quale naturalmente va il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Da Inmedia Piemonte leggiamo un comunicato dei migranti che occupano la prefettura di Brescia. Questa mattina, cioè mercoledì 14 settembre, un centinaio di migranti hanno fatto un presidio alla prefettura di Brescia, arrivando anche a occupare l'ufficio del dirigente all'immigrazione. A 2 anni di distanza dalla presentazione delle domande per il permesso di soggiorno, dopo le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte europea, la prefettura continua ad ostacolare il rilascio dei permessi di soggiorno ai migranti che ne hanno diritto. È una situazione intollerabile che non si può accettare in quanto risponde esclusivamente a scelte politiche del Ministero dell'Interno e dell'amministrazione leghista e di destra della città con la copertura del prefetto. Così come stanno diventando intollerabili i ritardi nell'avvio dei procedimenti contro quegli imprenditori ed intermediari senza scrupoli che hanno truffato migliaia di euro ai migranti per la sanatoria. La lotta non si ferma, proseguirà nei prossimi giorni fino al rilascio dei permessi di soggiorno. La prima di questo comunicato è quella di Associazione Diritti per Tutti, presidio sopra e sotto la gru. Vogliamo ora parlarvi di un'assemblea di Altra Cosenza tenutasi il 13 settembre scorso. A questa assemblea hanno partecipato numerose realtà di movimento dell'area cosentina ed è stato un po' raccontato quello che è successo negli ultimi tempi. In particolare agosto è stata ricca di varie attività di vari fatti che si sono verificati in diversi settori. Per esempio, per quanto riguarda gli spazi sociali, è stata raccontata la storia di Filo Rosso, che ha ricevuto 3 capi di accusa ad alcuni suoi militanti. È stata utilizzata la forza per sgomberare questo posto, così come già in precedenza vi avevamo raccontato. E ancora è stato parlato di migranti, in particolare si è raccontata la vicenda delle varie aperture di diversi centri per fronteggiare la questione degli sbarchi che sono, soprattutto dopo la primavera araba, aumentati in maniera esponenziale. In alcuni centri, come quello di Rogliano, se in un primo momento la cooperativa che gestisce questo centro ha accolto di buon occhio la presenza di alcuni volontari, attualmente invece, comprendendo magari l'esatta natura di questi volontari, pare che la loro presenza non sia più gradita, mentre il sindaco del paese invece sta offrendo supporto all'attività di questi volontari, che invece cercano di fornire delle conoscenze a questi migranti che sono richiedenti asilo, ma in queste strutture il più delle volte sono lasciati allo sbaraglio, cioè non hanno alcun supporto legale utile ad avviare invece le pratiche per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ma altri centri si trovano ad Amantea, un altro a Castiglione, che viene gestito dalla cooperativa Delfino più Promoidea. In questo caso i ragazzi sono insieme ai ragazzi che seguono la terapia per disintossicarsi dall'uso delle sostanze stupefacenti, perché lo ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il Delfino è appunto un centro che si occupa di disintossicazione dalle droghe. E altri centri invece sono presenti un po' in tutta la provincia, e probabilmente si parla anche dell'apertura di altri centri, come per esempio a Scalea. Quindi la situazione è in continua evoluzione, vi sono centri dove vi è un supporto, come appunto quello di Rogliano, o ad Amantea c'è l'Hauser che dà un supporto più che altro materiale, altri centri come quello di Cetraro che invece sono un po' più lontani, quindi non vi sono molti volontari che riescono ad arrivare in quel luogo. Quindi la situazione dei migranti è in continua evoluzione. Si è poi parlato in questa assemblea anche della questione relativa al campo Roma, alla costruzione di questo campo, dove vi sono una serie di associazioni che sono vicine ai Rom e che trovano comunque alcune difficoltà, per esempio per quanto riguarda la rappresentatività di questi abitanti del campo. È difficile infatti per loro avere un portavoce o una serie di persone che fungano da referenti per tutto il campo, e questo è un problema soprattutto nel momento in cui si va a decidere del loro futuro. Certamente è stato fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda la scolarizzazione dei ragazzi che sono stati supportati durante il passato anno scolastico, con attività di dopo scuola soprattutto, però chiaramente ci si sta confrontando da parte di queste associazioni con l'amministrazione comunale, e vedremo che cosa succederà. Invece, per quanto riguarda un'altra area sociale, ovvero l'area delle ex officine ferroviarie, anche qui ci sono stati dei mutamenti. In particolare nel mese di agosto c'è stato un incontro con il sindaco che si è recato in questo luogo, però occorre ricordare le vicende che fungono da preludio a questo incontro. Infatti l'incontro è stato fondamentalmente gestito da Stella Cometa, che, non si è capito bene, avrebbe forse dovuto invitare tutte le altre realtà del luogo, cosa che non è avvenuta. Infatti diciamo che l'area movimentista che occupa la zona è venuta a conoscenza di questo incontro soltanto la mattina stessa, quindi è stato praticamente impossibile riuscire a contattare un gran numero di persone per essere presenti in questa riunione comunque, durante la quale è stato detto chiaramente dal sindaco Chiuto, un sindaco UDC che si è alleato con Forza Italia, con il PDL, col partito di Berlusconi, in maniera quindi strana rispetto al panorama nazionale. Il sindaco Chiuto dunque ha detto chiaramente che in quell'area certamente lui è a favore per quanto riguarda la costruzione di una chiesa, un'ennesima chiesa dunque che viene a sorgere proprio anche nei pressi di un'altra chiesa la vicina. Non si capisce bene, insomma, si parla però di dover valorizzare tutte le esperienze presenti e si parla anche di una progettazione partecipata. Il sindaco dunque ha parlato di questa possibilità di dar vita a una serie di laboratori per progettare in maniera partecipata questa area. Ci auguriamo che ciò accada, nel rispetto però delle diversità e certamente nel rispetto della dignità di ciascuno, e nella volontà vera e reale di valorizzare e non di appropriarsi meramente di spazi per sbandierare poi chissà dove la grandezza di Cosenza che compra delle aree. Altri avvenimenti importanti di Cosenza sono certamente quelli che vedranno la partecipazione magari ad altre iniziative, in particolare in vista del 15 ottobre di questa manifestazione nazionale. Nelle prossime iniziative di Altra Cosenza con tutta probabilità sarà possibile parlare di queste iniziative. Intanto anche la questione dell'ambiente continua ad andare avanti, infatti la rete di difesa del territorio francolistico ricorda che l'8 ottobre si svolgerà a Crotone, una città simbolo della emarginazione ecologica. Si svolgerà dunque una manifestazione per dire basta al commissariamento dei rifiuti. Quindi si invita tutta la città a essere presente a questa iniziativa e alle altre iniziative che sono di avvicinamento rispetto a questa data. Ancora infatti a Cosenza e in tutta la Calabria si parla della costruzione, della necessità o meno di costruire dei termovalorizzatori. Questo termine che lo ricordiamo è utilizzato solo in Italia per camuffare insomma magari altre strutture che hanno poco di ecologico, ma ci sono anche alcuni sindaci, lo ricordiamo, che continuano ad ampliare delle discariche autentiche dove tutto viene buttato lì in maniera indifferenziata. Per esempio ricordiamo la mega discarica di Castrolibero, che è una discarica appunto che il sindaco Orlandino Greco continua ad ampliare, è una discarica che si trova proprio fra le aree di Cosenza, Castiglione, Cosenza Rende e Castrolibero, quindi proprio nel bel mezzo di questa forte conurbazione delle tre cittadine. Si continua dunque a parlare di ambiente, di migranti, spazi sociali e di questioni del lavoro. Infine viene anche ricordata la questione del Prendo Casa, ci sono altre persone, altre 30 famiglie che per esempio si sono avvicinate al comitato Prendo Casa. Tuttavia il comune aveva promesso per giugno l'apertura di un tavolo di discussione riguardo la tematica, questo tavolo però ad oggi non è stato avviato, staremo dunque a vedere che cosa succederà. Certamente la lotta per la casa continua anche nell'ottica di protesta rispetto a questi tagli della finanziaria. Infine è stato posto anche il problema della comunicazione, si continua a ricordare l'importanza di utilizzare il sito Altra Cosenza, il blog fondamentalmente di Altra Cosenza, che dovrà contenere tutte le iniziative che riguardano solo ed esclusivamente Cosenza e il suo hinterland e la sua area. Questo sito infatti è pensato per essere un contenitore e anche un archivio storico di quelle che sono le varie iniziative. Inoltre la presenza sul sito dei vari appuntamenti potrà certamente favorire quella circolarità della presenza dei singoli soggetti e delle varie realtà alle esperienze di tutti i movimenti presenti a Cosenza, almeno questo è l'auspicio. Infine, in maniera molto veloce, transizione di fase anche lì presente, lo ricordiamo, e vorrebbe essere contenta di far partire anche da Cosenza alcune dirette di vari appuntamenti che si svolgeranno, speriamo, in questo caldo autunno. L'informazione dunque riveste un ruolo importante e decisivo per favorire soprattutto la partecipazione e la democraticità alla partecipazione rispetto alle varie lotte sociali e culturali che si vorranno intraprendere.

vogliamo ora dare spazio a una nostra riflessione. Leggendo dei vari argomenti che si sono succeduti in questi giorni, per esempio pensiamo alle ragazze NoTav che sono state arrestate e dipinte dalla stampa come faccino rosa e violente, pensando anche a quello che è successo rispetto alle proteste sulla contro la finanziaria, ci viene da pensare quanto siano utili i media che fanno informazione dal basso. Questi media infatti permettono una conoscenza reale sicuramente di quello che accade nelle strade e nelle piazze della nostra Italia. Sempre più spesso i movimenti italiani di lotta e di protesta vengono bollati dalla stampa ufficiale come violenti, come gruppi di facinorosi. Da ultimo abbiamo ascoltato alcuni politici di mestiere affermare che le manifestazioni effettuate contro la finanziaria sono state fatte da falsi precari, da persone cioè che si camuffavano e fingevano di essere precarie. Ebbene, questi politici probabilmente non conoscono bene la società italiana, nessuno infatti si sognerebbe di camuffarsi da quello che è già. Tutti quanti noi fondamentalmente in Italia siamo precari, tranne le persone che siedono nelle sale del palazzo di governo, tra il Parlamento. Quelle persone lì probabilmente non saranno mai precarie. Dunque pensavamo a quanto sia importante riuscire a raggiungere un numero sempre maggiore di persone, cosa che molte volte i media dal basso non riescono a fare, rimangono il più delle volte confinati a una ristretta cerchia. Certamente una apertura in questi ultimi mesi soprattutto si è avuta, per esempio pensiamo alla possibilità di utilizzare sempre più facilmente i social network, per esempio su Indymedia Italia è molto più semplice condividere un link su Facebook rispetto al passato. Questo certamente mina alcuni principi forse, tutti sappiamo che i social network sono strumenti sotto controllo, ma non sono certamente liberi come lo è per esempio un sito come Italy Indymedia. Però c'è da dire che questi social network sono ampiamente utilizzati in Italia e quindi è molto più facile riuscire a raggiungere un numero maggiore di persone. Quindi i media dal basso devono continuare con questo sforzo, cercare cioè di raggiungere quante più persone possibili per informare realmente il popolo italiano rispetto alle lotte che si susseguono e che si seguiranno nel corso di quest'autunno ad esempio, e che certamente non vedranno la stampa raccontare il più delle volte la verità e la realtà per quella che è. Con questo non vogliamo dire che si debba creare un blocco unico di informazione dal basso, ma certamente sarà utile continuare a collaborare e fra di noi e fra tutte le persone che vorranno avvicinarsi a questo modo diverso di fare informazione. E quindi cogliamo l'occasione per ricordare che il progetto di Calabria Indymedia è aperto a tutte le collaborazioni possibili, quindi potete soprattutto pubblicare le vostre iniziative nella nostra agenda, ma potete pubblicare anche tutte le vostre notizie, le analisi e le vostre opinioni, nonché i vostri comunicati. Se poi volete partecipare in modo più attivo alla gestione del sito di Calabria Indymedia, potete iscrivervi alle nostre mail list di gestione del sito, delle quali trovate indirizzo sul nostro portale. Lo stesso potete fare per Indymedia Italia, che ha il medesimo funzionamento, quindi potete pubblicare comunicati, notizie, nonché appuntamenti. Ma vi ricordo che è anche possibile pubblicare su Indymedia Italia dei video. Questo però previa iscrizione alla lista. Anche qui infatti su Indymedia Italia vi sono delle liste di gestione che servono soprattutto a gestire il sito e a realizzare quegli articoli centrali che chiamiamo feature, e questo sia per Indymedia Italia che per Indymedia Calabria. Quindi vi invitiamo a partecipare anche alla realizzazione di questo programma di Indymedia Calabria, contattandoci agli indirizzi della nostra mail list. I nostri sono progetti sempre aperti e che gradiscono la partecipazione più diffusa possibile. Quindi continuate a seguire Indie Media Calabria, continuate a seguire Indie Media Italia e partecipate alla realizzazione di questa informazione dal basso, perché siamo tutti quanti noi i nostri media. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprenda il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto. E anche per quest'oggi Indie Radio si conclude qui. Ricordiamo ancora una volta i nostri orari, siamo in onda su Transizione di Fase ogni venerdì alle 21 e in replica ogni sabato successivo alle ore 12. Continuate ad ascoltare Transizione di Fase, continuate a seguire Indie Media Calabria e vi ricordo ancora una volta il nuovo sito di Italy Indie Media, che presenta nuove caratteristiche e nuove possibilità per gli utenti. Arrivederci al prossimo venerdì. Godi quando gli anormali son trattati da criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione.